giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Un caso di febbre dengue a Trieste, ne è risultato affetto un medico rientrato da un viaggio in India. Stasera divieto di transito per 2 ore in una larga porzione del rione di San Giacomo per consentire la disinfestazione radicale delle zanzare, potenziali portatrici di contagio. Di fronte al calo di medici di base si punta su telemedicina e diagnostica di primo livello, è quello che emerge dal congresso regionale in corso a Udine. L'allerta terrorismo in regione osservata speciale anche la base USA di Aviano. Non ci sono segnali di preoccupazione sul fronte di eventuali elementi radicalizzati sul territorio, rassicura il prefetto di Pordenone. Chiarito il giallo della scritta inneggiante ad Allah sul Duomo di Sacile. L'autore è un bambino. Firmato l'accordo tra ARPA Friuli Venezia Giulia e l'Ufficio Scolastico Regionale, una collaborazione che insegnerà ai giovani a conoscere e a proteggere l'ambiente. Domani arriva il maltempo sulla regione con piogge e venti forti. Nel weekend la situazione migliora. 10.000 iscritti nelle 3 giornate di orientamento universitario organizzate dall'Ateneo di Trieste. Oggi la presentazione dei corsi dell'area delle scienze, della vita e della salute. Biocarburanti e sistemi per catturare l'anidride carbonica. Udine e dottorandi nel corso di scienze dell'ingegneria ambientale espongono le loro ricerche. A Giannola Nonino il distintivo per 25 anni di cavalierato. È stata la 25esima donna nella storia della Repubblica a ottenere questo riconoscimento. Stamattina la cerimonia al Quirinale con il presidente Mattarella. Ancora buongiorno, ben ritrovati da Dario Ronzoni e Francesca Vigori. Accertato un caso di febbre e dengue a Trieste, ad essere risultato positivo al virus è un medico appena rientrato dall'India, pertanto nel rione triestino di San Giacomo, dove risiede. Questo pomeriggio e questa sera saranno messi in campo interventi di disinfestazione radicale. Il comune di Trieste informa che per alcune ore di questo pomeriggio e sera una zona approssimativa con un raggio di 200 metri via San Giacomo in Monte, comprendente anche il giardino Basevi e Campo San Giacomo, sarà interessata da interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali. Li prevede un'ordinanza del sindaco di Piazza e nello specifico viene disposto che tutti i residenti, operatori commerciali, gestori di attività produttive e tutti coloro che abbiano disponibilità di spazi all'aperto nell'area interessata devono permettere l'accesso al personale di Asugi e di quello della ditta incaricata alla disinfestazione per realizzare l'ispezione del sito e la rimozione dei focolai larvali presenti dunque anche in area privata. Nella serata di oggi, dunque indicativamente dalle 20.30 alle 22.30 e comunque fino a cessata necessità, l'ordinanza del Comune di Trieste prevede l'istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli nelle vie Bernini e Scala a Stendhal, via Molino a Vapore, via Corridoni, via del Bosco, via Castaldi, via Caprin, via del Rivo, via della Guardia, via dei Giuliani, Campo San Giacomo ai due angoli con via dell'Industria, via San Marco, via Vespucci, via Venier, via Veronese, via San Giacomo in Monte e la Galleria San Vito su entrambi gli ingressi. A fronte di una carenza cronica di medici di base con 200.000 pazienti scoperti, la medicina sul territorio punta su telemedicina e diagnostica di primo livello per rendere più efficiente, ma anche più attraente, questa professione. Se ne è parlato al Congresso regionale dei medici di base, presente il professor Brusaferro, già presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Lo smartphone collegato ad apparecchi medici di ultima generazione, portatili ed economicamente anche sostenibili è il futuro della medicina di famiglia. Ne è profondamente convinto Ferdinando Agrusti, segretario regionale della FIMG, che di questo parla al congresso regionale dei medici di base sul palco del Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Agrusti, che per primo nel suo ambulatorio di Casarsa ha investito nella strumentazione, nella diagnostica di primo livello, è convinto che modernizzare gli ambulatori servirà anche a rendere più attraente una professione, quella del medico di base, che vive una crisi senza precedenti. Dati recenti parlavano di oltre 200.000 persone in Friuli Venezia Giulia senza medico di base, 134 ambulatori scoperti. Perché la tecnologia aiuterà anche ad attirare i giovani a lavorare in questo settore? Ah, io credo che la tecnologia, quindi quando parliamo di diagnostica di primo livello, sia sicuramente un sistema che possa attrarre i giovani, che si sentano più coinvolti non solo nel seguire il paziente con le cure tradizionali, diciamo come si dice col fonendo, con lo sfigmomanometro, ma anche potendo fare delle diagnosi nel proprio studio o perlomeno anticipare delle diagnosi che poi magari andranno approfondite ad un secondo livello. Lei ha parlato di telemedicina. La telemedicina può rispondere a quei territori che purtroppo sono scoperti perché lontani dai grossi centri? Ma assolutamente sì, ci sono esperienze a livello internazionale proprio su questo. La telemedicina, diciamo in termini un po' primordiali, era nata nelle praterie degli Stati Uniti piuttosto che dell'Australia, proprio per collegare telefonicamente villaggi lontani dai centri importanti. Oggi con la tecnologia che c'è è possibile davvero collegare questi territori, anche nostri, della montagna, paesi che si stanno spopolando, dove è difficile avere ogni giorno uno studio di un medico di medicina generale, però con la telemedicina questa cosa può essere sicuramente migliorata e fare sì che anche per una questione giustamente di equità delle cure, quindi anche queste persone potranno essere seguite in maniera adeguata. Udine, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. La situazione internazionale, il rischio di attentati terroristici e di emulazione sul nostro territorio. Il prefetto di Pordenone, dove risiede un'ampia comunità islamica, rassicura: non risulta siano presenti estremisti, obiettivo sensibile la base USAF di Aviano, dove i controlli sono rafforzati. C'è stato allarme per la scritta Allah è grande a Sacile, l'ha tracciata un bambino. Si alza il livello di allerta legato al rischio terrorismo anche in Friuli occidentale, con particolare attenzione alla base di Aviano, luogo sensibile del territorio, ma per il prefetto di Pordenone, Natalino Domenico Manno, al momento non ci sono segnali di preoccupazione. Noi abbiamo fatto una riunione tecnica di coordinamento con le forze di polizia, anche per aderire ad analoga richiesta del nostro ministero, che ci ha espressamente sensibilizzato per alzare il livello di attenzione. Abbiamo ulteriormente potenziato il dispositivo di vigilanza, soprattutto presso la base di Aviano, e è stata ulteriormente anche sensibilizzata l'attività info-investigativa, l'attività di vigilanza generica di controllo del territorio, ma al momento non ci sono particolari segnali di rischio. Pordenone ospita una numerosa comunità islamica che orbita attorno a un centro di preghiera in comina molto strutturato e che richiama fedeli anche da altri territori. Il centro è attualmente chiuso per problemi strutturali. La prossima settimana è previsto un incontro in prefettura con i vertici della comunità per il ripristino della sede. Ancora il prefetto. La comunità è ben integrata, non vedo particolari situazioni di criticità, a parte questo problema di chiusura del centro, che cercheremo di risolvere quanto prima. In merito al recente episodio di scritta inneggiante ad Allah su un campanile di Sacile, l'attività investigativa ha ricondotto la vicenda a un'attività vandalica da parte di un minore. Venerdì 20 ottobre alle 17.30 in Piazza Risorgimento l'associazione pordenonese Neda Dei organizza una manifestazione a sostegno di due popoli con le bandiere di Israele e Palestina. Sabato 21 dalle 16 sempre in Piazza Risorgimento è stato autorizzato il presidio della piccola comunità palestinese presente a Pordenone, che gravita sulla comunità di Padova. Non saranno consentiti riferimenti ad Hamas. Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Il futuro dell'ambiente passa per l'istruzione. È stata firmata oggi nel Palazzo del Consiglio regionale a Trieste la partnership tra ARPA Friuli Venezia Giulia e l'Ufficio Scolastico Regionale per promuovere iniziative di educazione ambientale nelle scuole della regione. Ne abbiamo parlato con il direttore generale di ARPA, Anna Lutman. È importante che i giovani capiscano proprio come sta il nostro ambiente, da chi si occupa di ambiente. L'agenzia ha questa mission nella nostra legge istitutiva. Ed è importante che l'Ufficio Scolastico Regionale inizi questa collaborazione. Il progetto si sviluppa col concetto di iniziare a seminare all'interno delle scuole, quindi nei nostri ragazzi, proprio quali sono gli aspetti ambientali e aiutarli in un percorso per capire cosa si aspetta il futuro ambientale, anche in questo momento dove si parla molto di cambiamenti climatici. Devono essere attrezzati e devono capire cosa sta succedendo per poter essere anche più sereni durante il percorso, e noi dobbiamo seminare. Farete delle lezioni frontali? Faremo delle lezioni anche frontali con specialisti, ma la cosa bella è che iniziamo a presentare il rapporto Stato-Ambiente Junior proprio oggi pomeriggio, che sarà uno degli strumenti e un punto di partenza. Poi le scuole all'interno, insomma, in funzione della formazione che l'insegnante fa con la propria classe, deciderà assieme a noi che progetto fare per una classe piuttosto che un'altra. Proprio è aperto e iniziamo a dare dei piccoli strumenti per poter costruire assieme questo percorso. Sulla carenza di personale nella sanità è in programma a Monfalcone una manifestazione di protesta organizzata dalla UIL del Friuli Venezia Giulia assieme al Nursing regionale nel parcheggio davanti all'ospedale San Polo fra poco alle 13:30. La manifestazione segue lo stato di agitazione dichiarato dai due sindacati per la mancata risoluzione dei problemi legati alla mancanza di personale. Tra le richieste, più assunzioni e un maggiore equilibrio nella distribuzione delle risorse tra sanità giuliana e isontina. E sempre in tema di sanità, in occasione della giornata mondiale della menopausa a Trieste al Burlo, è in programma un open day organizzato insieme alla Fondazione Onda. I partecipanti potranno porre domande sulla menopausa ai relatori presenti nella l'Aula Magna del Burlo Garofolo dalle 14 alle 17:30. Le 12:41 minuti, il cielo sulla regione è poco nuvoloso o coperto, le temperature a Trieste 15 gradi, a Gorizia 13, a Udine 12 gradi, a Pordenone 11, a Tolmezzo 8, a Forni di Sopra e Piancavallo 7 gradi, a Sappada e Tarvisio 5, sul Monte Zoncolan e sul Monte Lussari 5 gradi, a Grado 13, a Lignano 12. Dalle ore centrali, aumento della nuvolosità, specie su bassa pianura e costa, dove in serata saranno possibili delle piogge sparse, in genere deboli. Sarà la premessa di un drastico peggioramento portato dal ciclone Medusa. Ce ne parla il meteorologo dell'ARPA, Sergio Nordio. La nostra regione sta per essere interessata da una depressione che porterà diversi sviluppi a partire dalla giornata di domani, giovedì. Ci aspettiamo che queste correnti umide meridionali innestino delle piogge piuttosto consistenti, soprattutto sulla costa e sulla zona orientale della regione, quindi in giornata intermittenza, quindi a più riprese, ci aspettiamo piogge che potrebbero essere localmente anche molto intense, appunto specie sulla costa e sulle zone orientali, più riparata invece nella giornata di giovedì la zona montana. Il maltempo prosegue anche nella giornata di venerdì con un'ulteriore intensificazione delle correnti meridionali, quindi soffierà parecchio vento da sud-est scirocco sulla costa e vento da sud-ovest forte anche in montagna, e quindi avremo ancora piogge intense, più distribuite direi nella giornata sulla zona montana, e poi in serata queste piogge ancora intense e temporalesche interesseranno anche il resto della regione. Anche il weekend sarà interessato? Anche la giornata di sabato avremo ancora instabilità dovuta alle correnti un po' più fresche in quota e alla presenza di questa depressione, quindi ci aspettiamo in giornata sabato dei rovesci e temporali sparsi che ancora una volta interesseranno maggiormente la zona orientale della regione. Andrà un po' meglio domenica, però ci sarà ancora un po' di instabilità, ancora qualche pioggia, in un contesto però che comunque sarà già in deciso miglioramento. Le temperature dopo il freddo di questi giorni sono destinate ad aumentare anche sensibilmente per l'afflusso di queste correnti sciroccali, quindi avremo un aumento soprattutto sulla costa e sulla pianura con valori massimi che venerdì probabilmente toccheranno i 22-23 gradi, localmente forse anche qualcosa in più, quindi tornerà a essere piuttosto mite. Ritorna all'Università di Trieste, da oggi a venerdì, l'evento Porte Aperte, rivolto alle lauree triennali e magistrali a ciclo unico. La manifestazione, che ha già totalizzato quasi 10.000 iscritti nelle tre giornate di orientamento universitario, richiama studenti da tutto il territorio nazionale e dall'estero. Hanno facce attente, curiose, un po' spaesate, ma soprattutto molto interessate i tantissimi studenti delle scuole superiori arrivati alla sede centrale dell'Università di Trieste per il primo giorno di Porte Aperte, l'open day di presentazione dell'offerta formativa dell'Ateneo dedicato ai corsi dell'area delle scienze della vita e della salute, da medicina, odontoiatria e alle professioni sanitarie, a farmacia, passando per chimica, biologia e psicologia, a cui seguiranno mercoledì i corsi dell'area tecnologica e scientifica e giovedì quelli delle scienze sociali e umanistiche. 10.000, secondo i numeri raccolti dell'Ateneo, gli iscritti alle tre giornate, arrivati da tutta Italia ma anche dall'estero, in particolare da Slovenia e Croazia. Una conferma della forza attrattiva dell'Università di Trieste, come dicono anche i primi dati sulle immatricolazioni dell'anno accademico appena partito, che sono superiori del 30% rispetto all'anno pre-pandemia. Trieste, Daniele Lettig, TGR, Friuli Venezia Giulia. Refrigeranti a basso impatto ambientale o combustibili green per motori sono alcune delle ricerche svolte dai dottorandi in scienze dell'ingegneria energetica e ambientale dell'Università di Udine in occasione della 13ª edizione della settimana dottorale. Il professor Christian Marchioli, che coordina l'iniziativa, ci ha illustrato una panoramica degli ambiti di studio. Ci sono diverse tematiche che sono interessanti anche perché sono in qualche modo note anche all'opinione pubblica. Di sicuro una ricerca alla quale anche tengo particolarmente perché è quella del nostro gruppo riguarda l'inquinamento da microplastiche, quindi sia nell'oceano che nell'aria atmosferica. Poi abbiamo delle tematiche anche in ambiti completamente diversi, ad esempio per quello che riguarda lo sviluppo di combustibili da basso impatto ambientale, i cosiddetti e-fuel. Problemi che riguardano anche la conversione dell'anidride carbonica che viene prodotta praticamente da tutti i processi industriali e il suo stoccaggio in modo che non venga rilasciata in atmosfera. Poi abbiamo anche tutta una tematica che pertiene alla logistica sostenibile, quindi ad esempio l'utilizzo di energie pulite come l'energia fotovoltaica per il trasporto di prodotti refrigerati che si vede, comincia a vedere sulle nostre autostrade. Tutte queste ricerche vanno verso una transizione ecologica, giusto? Questa è la missione del nostro dottorato, cioè cercare di portare avanti una ricerca sia di natura fondamentale ma anche poi di natura applicata che consenta in un ambito industriale o per quello che riguarda le problematiche ambientali, questo tipo di transizione, perché è ovviamente inevitabile sia per il tessuto economico che per la nostra vita, quindi anche per l'impatto sociale. Ecco, dal punto di vista delle applicazioni industriali, cosa si può dire? Al momento la nostra ricerca sta cercando di arrivare appunto a migliorare e ottimizzare dei processi che già esistono. Ci sono poi anche delle applicazioni nelle quali stiamo cercando di portare anche delle novità, ad esempio utilizzo di fluidi naturali per i processi di refrigerazione, quindi stiamo sviluppando dei refrigeranti nuovi che attualmente non ci sono sul mercato e che possono appunto rendere possibile questa transizione di cui parlavamo prima. Oggi al Quirinale a Roma c'è stata la nomina dei nuovi Cavalieri del Lavoro e dei nuovi Alfieri del Lavoro, due gli insigniti dal Friuli Venezia Giulia. Inoltre a Giannola Nonnino è stato conferito dalle mani del Presidente Mattarella il distintivo d'oro in occasione della ricorrenza del 25° anno di nomina Cavaliere del Lavoro della Repubblica. Giannola Nonnino era stata insignita dell'onorificenza nel 1998, 25esima donna tra i 1847 Cavalieri del Lavoro nominati fino al 1998. Tra i nuovi Cavalieri del Lavoro insigniti oggi da Mattarella, l'udinese Mario Biasutti, imprenditore nella pelletteria di alta gamma. Tra i nuovi Alfieri del Lavoro c'è Michele Bertoli di Udine, iscritto a informatica all'Università del Capoluogo Friulano. La cerimonia è stata trasmessa in diretta su Rai 1. Istituita nel 1901, l'onorificenza di Cavaliere del Lavoro è conferita ogni anno dal Presidente della Repubblica a imprenditori, donne e uomini, che abbiano contribuito in modo significativo con la loro attività di impresa alla promozione dell'economia nazionale e al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro del Paese. Tra le dinamiche del mondo del lavoro, una si è affermata con evidenza negli ultimi anni, quella delle dimissioni volontarie. Tanti lasciano un lavoro stabile, a volte ben remunerato, per cercare un maggiore equilibrio nella propria vita e a volte per allontanarsi dal lavoro che si ritiene stia diventando tossico. Ce ne siamo occupati nel nostro appuntamento televisivo del mattino. Buongiorno Regione, con Carlos Corvino dell'Osservatorio Regionale del Lavoro. Sentiamo. Non è una fuga dal lavoro, ma una modifica profonda della concezione stessa del lavoro. La pandemia ha lasciato il segno e lo evidenziano le cosiddette grandi dimissioni, ossia il fenomeno diffuso dell'abbandono di un posto sicuro ma insoddisfacente per impostare un nuovo modello di vita. In Friuli Venezia Giulia la crescita delle dimissioni volontarie da impieghi a tempo indeterminato si è evidenziata già nel 2020 con oltre 18.000 casi. Un anno dopo erano oltre 24.100 e nel 2022 sono state oltre 27.700. Il picco di un trend che quest'anno sembra rallentare, complice la congiuntura economica meno favorevole in questi primi mesi del 2023. Secondo me è un po' presto per parlare di inversione di tendenza. Noi abbiamo avuto un calo nei primi mesi di quest'anno rispetto all'anno scorso del 4,9%, ma il numero di dimissioni è ancora elevato rispetto al 2019. Dimissioni volontarie che riguardano donne e uomini di tutte le classi di età hanno una maggiore incidenza tra chi ha più di 34 anni anni, ma sono cresciute di più tra i più giovani. Ci si separa soprattutto dai lavori meno qualificati o più difficili, ma anche da quelli eccessivamente rutinari. Quasi tutti hanno un piano B. A parte chi ha potuto smettere di lavorare, tra il 60 e il 70% di chi si è dimesso ha trovato un nuovo impiego entro l'anno. Ma perché ci si dimette? Il mancato equilibrio tra lavoro e vita privata arriva subito dopo le motivazioni economiche, ma è al primo posto nelle risposte multiple quando si indaga su cosa si cerca in un nuovo lavoro. E in questo caso retribuzioni e benefit scendono addirittura al terzo posto, superati nelle motivazioni anche dalla ricerca di un'atmosfera piacevole sul posto di lavoro, la cui stabilità è fondamentale solo per poco più della metà delle persone che cercano un nuovo impiego. Andrea Covre, TGR Friuli Venezia Giulia. Anche una passione artistica o sportiva può diventare un lavoro, e per coltivare le loro passioni e farle crescere i più giovani a Trieste possono contare su una struttura ben radicata sul territorio, il Polo Giovani Toti. Si scatenano liberi di ballare un gruppo di giovani breakdancer triestini che incontriamo al Polo Giovani Toti, un luogo unico sul colle di San Giusto, dove ragazzi tra i 14 e i 35 anni possono coltivare le proprie passioni a costo zero. Il centro, ex ricreatorio trasformato dal 2016 in polo d'aggregazione per ragazzi, è gestito dal servizio educativo del comune di Trieste e attualmente dà spazio ad oltre 200 gruppi, sale studio, co-working, teatro, schermo per proiezioni cinematografiche, sala prove con tanto di strumenti musicali, campo da basket e persino una parete d'arrampicata. L'accreditamento è possibile in qualsiasi momento dell'anno, lo spazio è aperto persino quando è chiuso, nel senso che ai ragazzi vengono date le chiavi in mano del centro anche quando gli educatori non ci sono. Fiducia massima. Come si comportano i ragazzi? Lasciano poi i luoghi in ordine come li hanno trovati? Sì, è bellissimo vedere che a fronte di una fiducia reciproca c'è un grande rispetto per lo spazio, per il luogo, perché è sentito un luogo proprio e quindi un luogo di cui si deve aver cura. Torniamo allora ai breakdancer e ascoltiamo dalle loro parole perché questo luogo è tanto speciale. Questo posto ci ha dato lo spazio per poter crescere e continuare a coltivare questa nostra arte. Abbiamo conosciuto persone meravigliose, è un modo per poter integrare una gran parte della realtà giovanile, tante persone che magari non hanno una meta, un obiettivo o uno scopo preciso nella vita. Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Il nostro giornale si chiude qui da Dario Ronzoni e Francesca Vigori che l'hanno redatto e condotto, Federico Comare e Andrea Fontanot che hanno curato la parte tecnica, Samantha Gon che ha collaborato in redazione. Grazie per la cortese attenzione, un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.